realtà, certo, ci sono le palcature nuove, tutte particolari, per cui questo italiano non è stato preso, diciamo. Io mi sono venuto tagliato a piedi, sono stato lì, adesso per un po', diciamo la coppia, la cosa non è un problema, per me è sempre stato arrivare sul tempo. Guarda, per legge dovrebbero farti passare tranquillamente, che tu non vuoi disturbare, quello è. Non è quello, è il discorso è. A me mi hanno detto che comunque lo sai, dove c'è tutto il tetto, dove c'è tutto il solaio, stanno mettendo su una delle pannelli, ma stanno arrivando a un angolino per cercare un tetto, ma perché poi dall'altra parte c'è l'attico, l'attico. E dopo c'è stato, capito, tutto, sono 2, 3, 4 anni, e c'è stato, diciamo, che adesso si vede un po' di male. E però, non so come devono fare salire, però, sai, a quel punto per non stare a festeggiare, prendono una scala aerea e risolvono il problema, ma farlo, ma qualcuno. E 800 euro, non so se 800 euro per la scala aerea. E addirittura già, 800 euro. Natali, ci sei? E un attimo, mi si è rotto il portafusibile, che sto aggiustando il portafusibile dell'apparato. Quanto prendeva la scala aerea, te lo ricordi? E come hai detto tu, vogliono quello di anticipo, poi non so cosa ha detto voi, i permessi, se no manco vi veni, non sono dati. Io non sono riuscito a avere la scala aerea proprio perché a me mi serviva, sarebbe stato un gioco mettere l'antenna mia, io perché sono così ancora, perché non ho potuto fare quel gioco lì. Bisogna buscare qualcuno di quelli che aggiustano anche i lampioni, così qualcuno che c'ha quel camion con la gabinetta per salire su, anche quello va bene. Chiama i pompieri, dice pompieri, vuoi piantare un'antenna, sali sopra perché dice la tua sta cadendo, hai capito, sali su con l'antenna in mano, con il pompiere, piazzi l'antenna nuova e te ne scendi. Ha preso botta di 500 euro. Cosa? Quando chiami il pompieri, botta di 500 euro ha preso. Vabbè, ma a me lo piazza l'antenna, con i pompieri, non c'è bisogno di permesso di niente, entrano dentro una tua scala, anzi a sopra. E te la piazzano loro stesso, basta che tu agganci il PL, dove devo piazzarla? Dici in questo palo, tac, te la stringono e se ne vanno. Perché ci vogliono anche permessi per la scala aerea, per occupare lo spazio che tu stai occupando, per ci vuole il permesso. E ma devono lavorare un'ora, non è che devo lavorare un giorno, non credo che ci vogliano permessi per lavorare un'ora. Va Bru, informati, ma io so che è così. 50 euro prendono, in un'ora ti fanno tutto. Quanto? 50 euro. E chi è che prende 50 euro? Natali, fatela subito allora. 50 euro, manco se muovili. Si muovono, se tu glielo chiedi, loro chiedigli il prezzo prima. Ma chi te lo fa per 50 euro? Non ti date manco pugni a uccio. Se vicino si muovono, sino al monte si muovono. Ma chi pompiri? Oggi già ma 2 euro, ha già rigadero con un edo, è giunto. Ma ne è andata il rubetto della grondaia, ce ne sono andati, 50 euro. Ma è una cosa diversa, non vedi per l'antenna, no? Anche per l'antenna, cosa è? La matessi cosa? Ma tu hai chiamato uno col cestello, non hai chiamato la scala aerea. Ma di quelli lunghi ci aveva, con il camion grande. Ma, sembra strano, 50 euro, i casioni, se ti vedi, ma vedi chi, ho toccato troppo. Io ho fatto 2 anni fa questa cosa. E la Natalina il nome di quello che ti è venuto da te, così ce lo fa fare lui. Aspetta, come ti si chiama? Apre Danieda, il nome non me lo ricordo come si chiama. Buonanotte, bisogna andare a Luigi. Mi chiedere, però anche qualche azienda vuole fare cambiare gratis, ma mi stecca un pochino, capito? Che favori tutti richiedono? Se poi contraccambio, allora poi lo contraccambio. Io non so, io sono lavorato con molta questa gente, per cui diciamo che se chiedo per un'oretta avvengono, non è che sta impegnando un giorno. Magari quando trovano un momento, stanno rientrando la sera, perché se ne hanno preso un lavoro, si avvicinano, si accontentano, ma dovrei sistemare senza dover chiedere favori agli dirigenti, perché per voi sono sicuro che qualcuno me lo farebbe anche grazie. Mattalino è fermo per quello, perché ha bisogno della scala aerea, ma dice che prendono così, quel tanto lì. Ah, che la scala aerea ha un bel denaro, no? Se per una pezzeria, per un giorno non ci vengono niente, per un'ora neanche vengono, perché stanno rovinando la giornata, a meno che uno non è fermo e dice, tu lo facciamo di cortesia, mi dai tanto, però pensa a tutto, devono venire da te. E loro ci organizzano una giornata di lavoro, capisci? Vengono per un'ora, per 50 euro, e vengono a pigliare un bel denaro. Ma infatti chi l'ha fatta andare, vabbè, che hanno pensato in un grattacielo e hanno messo il corrugato nel tubo dell'acqua e mi sa che l'hanno preso sugli 800 euro. Ma è così. Noi avevamo chiesto gli 800 euro quando facevo un capocondomino che abitavo prima, c'erano saltate alcune tegole, il vento aveva saltato alcune tegole e mi pare che non avevano chiesto per venire a scavare gli 800 euro. Però loro si mettono contro il giorno del lavoro, non è che vengono per un'ora e se ne vanno, lo macchino. E perché non c'era la botola per salire in gruppo? No, assolutamente, ma prima si deve lavorare in un certo torrente, ci sono tante cose da vedere, ci vuole un'azienda per indagare, se non si può lavorare in un certo torrente, non è che sai. Noi non abbiamo neanche, da noi non avevamo neanche. Se una botola in un terrazzo non avevamo niente, figurati che io per salire sul tetto, quando piantavo le antenne, mi dovevo sporgere da una finestrella, arrampicarmi su una specie di sporgenza là dove c'era comunque un circolatore dell'acqua, non si chiama, la fase dell'acqua, ed era pericolosissimo, salivo. Qualche volta ho anche vecchiato, dovevo camminare su un cornicione largo, cosa ne so, 30-40 cm, pericolosissimo. Ho fatto dei lavori sul tetto, così guardavo le antenne, ma da pazzi. Ma non mi ha pensato oggi quello che facevo io, guarda. Non posso avere, non si può proprio fare. Prima eri più ragazzo, adesso hai la tua età anche tu, quindi non è una cosa fattibile. Si canderi in campagna, Mario Dardan, Mario, gli endiri di Paolini. Natali, hai sentito cosa ha detto Tore, che ha pagato 50 euro 2 o 3 anni fa a fare quel lavoro? Ma a me mi basterebbe una di quelle col cestello. Peccato che noi ce l'avevamo al comune quella lì, solo che quello che conosco io non c'è più, che in pensione, se no l'avevi già amato, 5 minuti non mi avevi abbigliato manco nulla, entri a retromarcia e no, dimmi, in un minuto rabbiazzo un'antenna. Lo so. Bisogna trovare qualcuno che faccia questi lavori, che cambi lampadine, di questi che fanno di queste ditte che prendono gli appalti, capito? Qualcuno così. E se no basta chiedere di rubiti un furgone di quelli in affitto. Ti rubiti, via. Non ci vengono, no. Vogliono di cauzione 800 euro, da voi per un travaglio da pagare. Non è così. E perché ci vogliono i permessi? Perché se ti trovano, sono cazzi. Capito, Bruno? Io ho capito, devo fare come facevo quando sono stato sulla tortetta. Se vediamo com'è questa situazione, la continuo anch'io. E già la troviamo. Che non sono più interessato come una volta, se no le leggi parlano chiaro, mi deve fare salire e basta, non si discute. Però, ci siamo, ci siamo, un po' di successo. viaggio Adriatico, il secondo video. Ci sono un anno e mezzo, due anni, al viaggio Adriatico. L'80% delle persone li ho chiamati a quel paese. Per cui, bisogna stare calmi. Se voi ce lo leggi stampati, io... Ah, ma per quello non... Non mi hanno, cioè io ancora non ne ho neanche chiesto, no, però siccome sto chissando, so che potrebbero, ma adesso vediamo se tutto va bene, sto parlando con questi dal cantiere, perché non c'è una finestrella, una botola come molti palazzi che si sta e c'è tutto sul tetto qua, perché tutto adesso il cantiere stanno piantando solari, per cui quando non si sa dire, ma come faccio a dire, perché no, non capisco che c'è il piede, poi alla fine, prima di tante d'anni, quando siamo cantieri, la linea, quando vanno loro, tutti hanno le tappe, già salgo con la scala, però ti faccio vedere che era piatto lo stesso l'antenna da furio, per colpa di uno stronzo, Emmi, che non posso piazzare l'antenna, brutto. Però io la piazzo davvero, va, pura cara. A chiamarmi la Varu e da voi tirazzo telescopicamente, c'è stata la sura l'antenna. Non ti preoccupare, ci lazzo qui, ci la vozzo io. No, ma diciamo le leggi sono fondamentali, non so se fatto diciamo. Io sono rimasto Franco, avanti Franco sta parlando. Sì, sarò mangiando, dai. Vabbè, vi saluto anche io tutti cordialmente, dai, che vado a portare giù il cane io. Ci sentiamo, ciao Bruno, ciao Alessio, Talino, Franco, se c'è ancora, correti per me, dai. Buona serata a tutti. Ciao Gianni. Sono rimasto io, Bruno. Come sto uscendo con l'omologato? Vedi? Bene, bene, bene. No, io, guarda, io sono un po' delicato di essere amplificato, perché se lo usi bene, l'amplificato è un ottimo microfono, va bene, ma quando esageri è un casino. Tu hai detto, una radio bene, una radio pulita, non bombarda, però è chiara, è bella. Ehi, questo è da tavolo lo stesso, però bisogna sapere dosare, diciamo così. Questo è preamplificato. Beh, ma se tu lo tieni basso, sta, è perfetto. Ora ancora c'è sì, il dottore è preparato. E verso che ora sì, si avvia Dusi. Che tu non la faccio. Oh signor. La guerra. Prima che mi sparino, è perché ti sparano. Comunque adesso la concessione non c'è più, Bru, forse il diritto all'antenna non ce l'abbiamo più noi, mi. Con quella roba lì mi sa che non ce l'abbiamo più il diritto, che ti fa, devi salire per forza, capito? Perché concessione non ne abbiamo più. E ha le macchine verde come il decreto che hanno una concessione. Non credo che abbiano stabilito che una volta che tu non hai più la concessione, comunque deve avere una legge che avevi già acquisito anni addietro. Quello non credo che... Ma lo sai cos'è? Si tratta di non visitare, perché ripeto, se voglio salire salgo e non me ne frega niente, però... Siccome io questo tetto non lo conosco, ho chiesto a uno che abita giù da noi e mi ha detto devi passare in un attico, che sono l'attico di proprietà, c'è tutta gente. Però sai, ancora non ho chiesto niente, poi vediamo cosa succede. Il problema è che io avevo piazzato quel... questi boomerang, che cavolo si chiama, sul balcone, ma non andava, non mi sentivano bene, che da quello del punto avevo comprato la frusata, l'avevo fatta a 70 euro, 3 mesi, lo stiletto sotto, non per il stiletto regolato, 3 mesi di altezza, però non mi piaceva, non dava, e allora l'ho tolta, anche perché sto facendo un cappotto del palazzo, e dunque ho dovuto togliere anche il cavo che mi aveva portato fuori, ho fatto tutto. E adesso vediamo quando smettono questi qui di infranaccare, forse di rifare un altro foro, perché un antenino comunque su qualcosa lo voglio tenere, anche per ricevere. Sì, infatti. Io adesso qua sto aspettando che faccia qualche bella giornata, vedrai con la scala, io ho l'antenna pronta, tutto quanti, no? Mi ha preso tutto. E siccome questa che ho, quando mi entra l'acqua che piove, mi manda in corto la bobina e mi salgono le stazioni di fondo scala. E allora me la cambiano, mi metto quest'altra che ho qua pronta. Ah, lo sto facendo bene, io sto facendo molto bene, quasi non avrei detto che non è, io in questo momento mi trovo una sole queste, dato una sole, molto bianco, sono messo lì dentro un ghiotto in una campagna, pensano arrivare, in una zona un po' alta per farmi sentire, perché dalla macchina sai come, sono andato lì. Perché io sono migliorato adesso, capisci, sto usando quella di disturbo, come cavolo si chiama, anche una calamità perché si vende fusato. E quella che ti ho consigliato di ricomprare? Però va benissimo questo tempo. Però metta sul balcone, non va, non funziona, proprio male, male, male. Adesso rimane, da una macchina spara bene. L'ho provato sul balcone, nulla, quasi non mi sento. Ma che vuole fare un piano di perfetto, quindi una cosa non è, o in alluminio, un piano di modo più freddo. Ho toccato il balcone perfetto, se tutto un po' di avanti Natalia. E capo, mi prendo le scale e mi lavaro un'isa e dopo ce la salgo da terra perché la mia è piazzato il tubo in facciata, capito, là, perché sul tetto non ci puoi salire qua. È per colpa di uno stronzo, adesso non la posso togliere, però lo sai come faccio a toglierla? Mi prendo la scala e ne la cavo lui stessi, cazzo, problemi non vi nemmeno. A quanti metri sì? A quanti metri l'hai detto? Grazie, a quanti metri sono quell'arrivano? E 9 metri, perché tre piani qua e sono 9 metri, ma a me mi basta salire a 6 metri e ne scendo. Con la scala ti sto dicendo, mettiamo due scale, una a destra e una a sinistra, siccome è piazzata su una pipetta di antenna parabolica questo tubo, bisogna alzarlo e ne va a rasura. Ah, per te forse basta non che c'è stelle, qualcuno che sabato mattina non sta lavorando, sarebbe stata una paglia, capito? Se l'avessi trovato uno che veniva col cestello, salivo io stesso col cestello e svitavo due bulloni, inviavo un die l'ubizzo, un die l'antenna e ci infilavo l'altro direttamente e non me lo toglievo neanche il tubo. Adesso invece mi piazzo le zaffe e ce la salgo da terra, così non devo chiedere più niente a nessuno. Molta gente ha tutti, diciamo che evita, si cerca di evitare di attaccare, però arriverà a quello, se non riesco direttamente arriverà a quello, comunque adesso che questo cantiere è quello che è stato, tanto ci sono quelle stanze di un'inizio che si mettono col passetto, perché si è diventato una volta. Facciamo le antenne sul tetto, da noi avevo dovuto curare le staffe, qui se fai un buco su una facciata si scandano un tipo, e qui diciamo sta servo di tutti i chili, credo che siamo abbastanza forte, dai. No, metto quei tirafondi, ci metto, c'ho già la barra filettata qua col chimico, qui c'ho i tasselli per il chimico proprio. Mi va la prima roba razzo di antenna, dico che quindi faccio un lavoro, già tiravo subito. Una volta che arrivi a quel punto devi fare un lavoro che sia una cosa sicura, perché poi non è che ci puoi risalire davanti, no? che sia più sicuro, che l'avrebbe tutto, che l'avrebbe tutto, se si muove il naso vulcanizzante, metti il naso vulcanizzante, perché molte volte anche, sai, contatti, questi oscillano, e dopo un annetto o due magari cominciano a fare le balle, carica stazionale e tutto, per cui, ma diciamo che difficoltà, una volta che lo fai, lo devi fare per te. Sì, già lo faccio bene, poi ne la posso togliere quando voglio, piazzata come la voglio piazzare io adesso. E non devo chiedere niente a nessuno. Vabbè, un attimo, adesso stavo guardando, sono quasi le 8, io comincio a mettere in mano la macchina, qua me ne chiedo, mi sono staccato di piazzare. Non so se non è fatta tagliette, era mai detto. Allora mi dissate, ma io tu dalle fatte e siccome c'è una casa lì sono molto faccio da qua prima anche dove mi dica anche al momento del microfono per salutare ho detto qualche altro che è lasciato ancora. E ciao Bruno, comunque io sono in corso Trinità. Ho capito. Un po' basso di radio, sì, forse stai parlando lontano dal microfono. Sì, no, ma poi questo microfono, per carità, avevamo messo un preamplificato, rompevano le balle, ho cambiato il microfono, ne ho comprato un altro, l'abbiamo messo, fischiava e alla fine sono rimasto nuovamente al microfono originale. E ma sono uscito, come hai parlato più vicino, ho uscito 5 la radio, proprio bella. Un secondo, prima di andare ci vuole un controllo di radio. 5, amplificata. Ma è chiara, sì? Chiarissima. Dai, vi saluto di nuovo, dai, vi stavo ascoltando mentre vi preparavo. Adesso vi saluto definitivamente. Ciao Bruno, ci attiri anche amici. E il bippi deve avere preso freddo, forse è raffreddato, perché ha fatto bippi. Natalia, il bippi si deve mancare. E anch'io ce l'ho il bippi qua. Questo è un 3009 omologato. Praticamente gli mancano i canali, però c'ha tutto, la banda laterale, c'è tutto quanto ed è omologato. Anche noi soltanto alle 7. Il coso dei canali non agisce, l'ha comprato così ed è omologato. C'ha 4 watt e andava. Già va bene. Approfitto del microfono. Nuovamente. Ciao Bruce, ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao, ci sentiamo. Sono riuscito a uscire da questo fango, cazzo, vedo che è stato, se non vi ho trovato, cazzo, me l'ha istantaneamente, cazzo. Ma come avete reso qui scritto? Ciao. Ciao. Cina, deportazione ucraina, appena fuori. Chi è? Buonasera. Vabbè, ciao. Il cazzo. Questo può calare circa dell'ultimo anno della un po' meglio aspetta un attimo, ora che aggancio l'iPhone. come? Meglio anda. Eia. E andava già. Cazzo. E chi? E chi aveva forzato il giardino? Aspetta. Soltanto io, anche a te. Ok, Luca, mi senti? Sì, ho fatto un attimo che mi sono quando mi stanno picchiavando, vabbè. Dai, va a farmi la voce, ci sentiamo dopo. Cata. Luca, dove sei, cazzo? che canta, che con una tipa canta. Se c'hai le cose, il CD, ci sono, ci dovrebbero essere tutte. È bella quella canzone del collage, sono bella. La stavo cercando per cantarla, questa la batte, ma non la trovo. Forse su YouTube lo può essere, basta che controlli, magari la trovi lì, solo la base. E allora, per cantare con l'altro di canzone. Questo comunque è l'unico posto dove non mi ritrovo molto, che c'è un suono di un gatto. Il capitano, lo sai. Usa lei, cosa? Gli ho detto cosa l'altra volta? C'è che anche tu, quando siamo andati assieme. C'è la maniera di usare lei, con le casse sono troppo attaccate una all'altra. Capito? E quindi c'ha questo suono di Bertola. Se, l'unico suono che funziona bene è quando tu prendi gli attacchi, come si chiama, quello per discoteca. Allora, quella palicatura esce bene. No, sto facendo la console, no. È tutto il posto che secondo me è fatto male. Una cosa è chiara, che se gli sono mandata di Antoni, allora si intendi, si sente bene anche. No, ma le casse non sono male, attenzione. Ma quel mixer che c'ha fa di un cagare che non ti dico, quel piccolo mixer della REM. Dottor Vicenzo, l'altra volta è venuto questo tipo qui, ha portato tutta la roba sua da discoteca, ma tu dovevi sentire le casse, mi sentiva veramente bene, un suono totalmente diverso, capito? Solo che ha suonato per 4 ore e meno o di più, ha fatto 4-5 passaggi, e buh, non ha fatto altro, però sentiva molto meglio. Hai lavorato la roba sua? No, non l'ha provato la roba sua, l'ha provato quello, si è portato tutto da casa sua, due valigie ci aveva, mixer, tutto assieme, capito? Giusto, adesso sono tutto con questo cazzo di fondo, è pieno di foto, è un casino del cellulare, ti faccio vedere il mio mixer, ti faccio vedere. Il tuo mixer sarà grande, l'ho avuto anch'io qui un mixer, ma grazie. Lo usavano, qua giù lo usavano, al bar, l'avevano bruciato, lo fa, riparalo, grazie. Quando sono andato a ripararlo, meno male mi sono messa a distanza, grazie. Come attaccato i cosi, il tassisto dove ha fatto, ah, è saltata la luce in casa, gli ho fare la cosa, quel mixer è attaccato in giro in cura, gli ho detto. E perché? Perché gli ho detto, è tutto bruciato. Si è abbruciato, lo stampato di sotto e di sopra, quindi facendo le saldature era un casino, un troiaio. Ci ho provato, gli ho detto, vale, io ci provo, però è messo male forte, gli ho detto, come l'ho smontato. Infatti, mi sono rimasti solo i pezzi di qua, di quel mixer, le manopole, ce le ho tutte, come si chiama? Il cuore metallico di sotto, lo chassis. Ma Tassini c'hai pure? C'è anche Cusantini. Ci mi fa vedere cosa è, poi cioè magari possono servire per il mio oppure per qualche altra cosa. Te l'ho mandato, mi. E ho sentito infatti. Allora, ascolta, io ti do la busta di te, la punta l'angelo e tu non me ne frega niente. Tanto se non, tanto ci devo buttare quelle manopole Fusantini. Io non ne ho mixer qua, capito? Quindi te l'angelo e tu, ti do tutto, mixer, Fusantini, poi se ti vuoi se ti servono magari i pezzi, tipo le manopole dei volumi e cose del genere, che sono nuove, led, eccetera eccetera, ti punti anche lo stampato via, così ce l'hai di riserva, non fai altro di saldare un pezzo e metterlo nuovo, nel caso dove devi cambiare, non so, fa 7 anni, 8 anni, quello che è, i pezzi a me non ce li hai, non fatto che tu li, la questo stampato qui e metto i pezzi di lì. Io dopo guarda per vedere. È davvero me quello che ho io, che è un mixer serio, ma non è proprio un idropo, c'è a vedere. Ola, cazzarola. Vabbè, adesso vabbè, più di 5 quasi 6 avevo nello Smith, hai capito? Perché c'è uno Smith che c'è un passo contatto con lo stampato di questo Saturn Echo, e in pratica gli ho cambiato il trimmer, io l'ho messo nuovo, adesso devo cambiare una resistenza che solo devo trovarla originale, neanche ho scritto a uno, vediamo se mi ha la risposta che valore c'ha, così me lo smettetto da come prima. Capo, mi vai a prendere il telefono che te l'ho mandato? Adesso te l'ho guardato. E poi mi dici cosa ne pensi? Sì, le altre sono uguali, quelle che ho io. E anche con i pulsantini c'ho quelli grigi. Dammi le slider, quelli non ce li ho. Capo, bello, no? Certo se è bello, cazzo questo almeno 1000 passa euro costa. No, ho pagato di meno. E è molto meglio di quello che c'è il capitano. Questo qui c'è solo maglia quello del capitano. Un altro bello mi è rosso, ne ho più piccolo. Ma è bello davvero me. Certo se è bello. È veramente troppo. Per il lusso. Aspetta che mi ha mandato Fabio Mucoso, aspetta. Capa, Audio Design Pro è quello. E gli buono, aspetta un attimo che devo scrivere. Allora, la frequenza quel cazzo è. Aspetta, devo andare su. Su YouTube un attimo, cioè su YouTube. Affanculo. Su WhatsApp. Aspetta. Sì. L'altro questo cazzo. 068 75. Ti mando la fotografia che non è male, sempre meglio quello del, sempre meglio di quello del capitano, eh. Io l'ho visto, un vecchio leme, fa cagare, fa cazzo proprio. Cosa per esempio Costantino non può proprio vedere che si cazzo di mixer così, mamma mia, che li odia quelli così. Eia. Ah, ho sentito quello del capitano, e l'ho visto anch'io. Poi quel secco, quando l'ho sentito, per carità. Infatti gli ho detto, ma tu non le coccate. Si sente, ha detto, troppo storie, sei stonata, gli ho detto. Ma io canto col dice, no, Pasco, sei tu che stai lavorando qua, non sono io. Però siccome sono tecnico io, queste cose le so, io ho detto. Se uno quando canta canta senza eco, non canta con l'eco. Se è peccato fumato, cioè peccato fare la voce, ho detto, mettici un reverbero, ti ho detto. No, ecco, no, quello che usa lei è proprio un reverbero, a me non piace. Poco di eco ci vuole. Poco però. Non come ti fa la baringhia. Ti me ne sono accorto. Ma io l'ho detto anche. Era giudito. Ma devo sapere a lei cosa fare. Quel mixer fa dei lacamo. Non sai cosa vuol dire lacamo. comunque non c'è buona lei a fare. Le casse sono buone, perché le casse le conosco e sono buone, perché l'audio del Jai Pro so di cosa si. Ma forse sono un tipo. So di cosa si può vedere. Se conosco. So di cosa si può vedere. Già sono buone, diciamo che c'è anche di meglio di quelle casse. Buone c'era qualcosa, Raimondo di GBL di Panichea, ma grande casse, ma grande davvero, quello che c'ha il circolo in questo video di Emanuele, sta parlando quel circolo che c'ha la porta dell'alluminio bianca. Lo so, ma la casa non vuole solo grande. GBL, che cosa sta facendo? Niente, niente. Cosa intendi già? Aspetta un attimo. Ehi, Antone, dimmi. Ti stavo dicendo che io per comprare roba del genere, quella casa, anche se è piccola, che non è molto grande, se di buona qualità, se tu mi parli di un FBT, mi parli di un GBL, mi parli di una roba così, c'hanno l'amplificatore buono dentro e quindi tocca nel muro. Se tu mi parli in casa di roba cineseria, capisci? Già lo so, già lo so. Ho visto case belle. Pensavo che le case più belle dove le ho viste. Giù a... come si chiama? L'Hotel Marini. C'è un impianto che era 1600 watt dentro. Quello l'ho usato io, ma da te ne fa. Però c'era il regolatore, perché sennò massacrava il piano di sopra. E siccome l'amplificatore me l'avevo riparato io, tanti anni fa, quando ti parlo della, intorno al 97-98, scendevo io tutti i giorni di lì, scendevo a bermi la birra, c'era il gambusiere che conoscevo e faceva scendi quando vuoi, altro me, tanto non devi pagare nulla, mi ha detto. Scendevo io e bevo 5, 6, 7 spire, figurati, un giorno ci ho salito, l'amplificatore pesava più quello che sembrava che ci avesse una persona davanti, seduta. Cazzo, ho detto, già pesa poco questa amplificatore, pesava minimo 40 kg. Lo so, ma adesso quelli di adesso sono più leggeri, sono. Io ci faccio provare delle micche da 1300 watt l'una, che sono una cosa micidiale. Quando sono sceso per provarlo, mi ha fatto tanto bene, cosa devi provare? Tu sei detto, non provare l'amplificatore, però ho detto, dopo togliere questa giccia, gli ho detto, il limitatore. Mi fa, però usalo neanche di 2-3 minuti, se no dice, scende il padrone dell'hotel. Ho fatto la prova, ma neanche 3-4 minuti mi ne vado per quello dell'hotel. Ma posso che si sente tutto nelle camere di sopra. Capa. Oh, il cazzo, me lo può ripetere che mi sta parlando Sara? Ho detto che lì a Marini, quando ho provato l'amplificatore, ho stato l'imitatore e quando l'ho messo a manetta, per 3-4 minuti è sceso il padrone del Marini, dal piano di sopra, capito? Dice, basta per piacere, perché si sente tutto su, fino a subito, ho detto, ma si sente un bel... E dopo guarda, ho detto, stavo provando l'amplificatore, ho detto, che mi è stato dato per ripararlo. L'ho sistemato e ho detto adesso è a posto. E ho provato 3-4 minuti per vedere se andava bene, anche per vedere un po' se toccavo le casse. A voi che toccano, ha detto, dice, metti nuovo il limitatore, mi ha detto e basta. Poi adesso non so se la stanno usando quella attrezzatura. Io ti parlo quando c'era il coso, il night, che da il coso avevo fatto il night lì. Chi già toccano i vostri, ma le roba buona, ma se poi il limitatore non vale più, cioè tanto vale che le casse per i truccati bene. Ma si sentiva troppo su, non era scalmato, capito, sopra. Nel senso quello lassù, dentro nelle camere si sentiva un bene, a più piano. detto, sentiva, dice, un bel, come se ce l'avessi a fianco, dice, in camera, mi ha detto. Ma io ho detto, bella, alla sala di isolamento che ci avete qua. Campa, così, già non credo già, infatti molte volte secondo Don Valè non ha senso, capito, mettere questo limite. Cioè mettere quelle casse così potenti, tanto se ci deve mettere limite a cuore lo deve compare già fatto. Ma purtroppo ci voleva quel periodo lì, capito? In tutte le discoteche ci vuole il limitatore, se no non puoi salire nulla, capito? Se soppassi quei decibel, vengono i vigili cubani, ti uccidono tutto. Anche se loro erano in un hotel, capito? Quindi, comunque loro, cazzo, 1500 watt ti trova fuori, ma di scioltezza proprio. Beh, c'è una roba buona, sì, cazzo, già non credo. Discoteca, cioè, sicuramente spingono più del doppio. C'è qualcuno, soprattutto quando sono fuori sassari. Che sto dicendo, i bassi, lo sai come li sentivi? Si sentivi il petto, tututum, tututum, tututum, tututum. Hai detto, cazzo, che bei bassi che c'ha. Di lusso, adesso me la godo 3-4 minuti, ho detto. Allora invece vado vinto e vado a fa' il culo, ho detto. La roba buona costa e molta gente non lo vuole capire. L'altro giorno in via Rogel, non volevo dirlo, c'è fatto una serata, chi dunque c'era disperato, c'erano delle casse piccole, ma faceva di un cagare che non ti dico, chi era disperato era. Se c'è soldi, si compra le casse nuove adesso, se comincia a entrare in cassi naturalmente. Se vuoi fare un impianto lo fai come si deve, non lo fai con casse piccole, no? Se no è inutile che vai a ascoltare la musica. Ma allora la gente è fissata, la gente ha questa fissazione, ha sulla musica, no, il bibone di Dina, perché è così. Dice, ma questo costa di meno. Cioè, magari quello là costa 50 euro in più, però magari c'è un amplificatore con le palle, funziona, perché io ne ho visto piccole, tipo delle FBT che soccano davvero, ma non hanno un amplificatore cinese, hanno un amplificatore davvero con le palle, hanno fatto bene, costruito bene, non cineseria. La gente dice, mi costa 50 euro di meno e compro questo, poi va a fare il volume, non c'ho fecca. Invece tu prova a sentire una casa seria, è buona, c'è con quelle della Mecche che hanno i coni in titanio, hanno anche, cioè, prova a sentire quelle, l'amplificatore è veramente buono, cioè, perché? Perché sono costruite come Dio comanda. Ci sono quelli della LSS che sono casse, sono l'alta gamma cinese, ma non hanno niente a che vedere, a che fare con quelle, con vice economiche. Cioè, hanno un amplificatore allucinante dentro. Io lo so. Guarda, ti dice sempre, Simbolo ce l'ha buttato in garage, ce l'ha cosa, e Daniele ce l'ha. Quello della FAC. E qua c'era un periodo che faceva le desfilate per Mister, non mi ricordo cosa cavolo era, e tutto l'impianto l'ho salito io su, capito? E cazzo, c'era un impianto veramente bello, c'era un mixer, era di lusso, microfono di lusso, le casse altrettanto, la luce ai soldi, cazzo. Ha pigliato tutta la Fusalomi, figurati, che in pratica è il cognato di Marzia, capito? Ha preso tutto la luce, su di lui ce l'aveva, quindi ci servisse proprio bello, ma veramente bello. Solo che ha sprecato, perché ha fatto, l'ha usato 6 volte, e poi ce l'ha messo in garage, ce l'ha messo adesso. Non lo sta vendendo? No, non lo so se lo sta vendendo, non so cosa dirti. quello che ho in questi giorni, se c'è ancora quel server, quell'impianto completo, ti faccio sapere. Sarà vecchio, sarà puro. No, se no di 2 anni fa. Ah, erano delle obsolescenze. Cazzo, se non ce ne fa niente perché non se lo vende. Ma chi è Daniele chi? Daniele Scuncia, si chiama. Ma se non lo usa. Magari partirà a fare le serate, boh. No, non le sta più facendo serate adesso, no. Capito? Nulla da fare. Come si dice, l'impresentatore faceva la moglie, capito? Faceva le serate lì alla piazzetta e cose del genere. Che era bello quando faceva quelle serate lì, c'erano tante di quelle ragazze quando andavano a cambiarsi, si vedeva tutto, si vedeva. Quando si cambiavano il costume si vedeva tutto, tutto. Anche i peli si vedeva. Qualcuno mi ha detto, ma cosa c'è di gente? Mi ha detto, come ti rubate la vantata, cosa, come ti si chiama? Sara, come ti si chiama chi sa che fate caro che è capitano? Non si ricorda. Non si ricorda, lo sai dovunque. E Angela si chiama. E Angela, a me non mi piace comunque. Ma poi verrà l'altro Giuseppe, vera, che parliamo le serate di giovedì. Poi di giovedì non ci sono andato, siamo andati solo lì, quella sera lì che ho visto a te e altre due sere con Giovanna, la verità. Poi sono più andato lì. Capita anche perché dovevo andare a prendere Alessia non ci lavora più lì, quindi la licenziata insieme all'altra ragazza che c'era, e cosa ci vanno a fare? Non mi interessa, ce ne sono locali aperti fino a mezzanotte qua, vado a Ricco, se voglio bere la birra me la bevo 2,50, non chiusa, e risparmio, no, cazzo, le 33,50, io ho detto, non le voglio altre, ho detto, guarda, per bermela qua, ho detto, chiusa, ho detto, preferisco bermela, ho detto, andiamo da Ricco e beviamo la Ricco, ho detto. Ma costa di più perché pagare le tasse. La Nicco, dove c'è la Nicco? Nicco mica c'è il bar, c'è il circolo via Torino, angolo via le Dante. Oh, ragazzi, non me lo ricordo mai. Dove vado io è 2 euro. Sì, via Torino, vado lì, mi bevo la birra. Anzi, mi bevo due, la verità. Mi siedo, mi diverto, non c'è nessuno, ti rompe i coglioni. Capito? Siamo tutti uomini, grandi, cioè a volte vengono anche dei ragazzi, non ce n'è di ragazzine eccetera eccetera che affarrati. Sì, sto bene, e poi prendo il figlio di tale e salgo a casa. Ho capito. Stavo dicendo, da piccolo non mi gioco. Un paio di volte ci sono entrato e basta. Una volta faceva anche karaoke, adesso non lo sta più facendo. Ieri sarà forse 4-5 anni che non fa più karaoke. Prima lo faceva la sera, da mezzanotte fino al zinco di Manzano. Iniziamo presto. Sì, qui alle 6:30 apre la sera, no? Apre alle 6:30 e rimane, vabbè, adesso rimane fino a mezzanotte aperto, 11:30 mezzanotte, perché sta facendo un altro lavoro ed è assicurato, ho capito. E la mattina c'è la moglie e la sera c'è lui. Quanto ce lo fai andare il circo quando guadagna? Su che cosa? Vabbè, ma lui è. Forse è stato di fronte alla strada, è stato quanta. Vedi? Ma lui è proprio una via di vigilare delle rate, se non ci fai caso non lo vedi nemmeno. Via Torino. E all'inizio di via Torino proprio, girando per via Levante, cioè non per via 3-4 novembre. A me lo dire. dicendo, cioè, se sei tesserato, dice. Io ho bisogno di tessera, non ho bisogno di tessera, io non sono tesserato per niente, è una di che ho questa giù per baracchina, da quel giorno andavo da fratello a bere, va bene, conoscevo anche la prima, il fratello anche a lui. Quando andavamo alla stazione, c'erano tutti la commissaria sacrestano, c'era Giuseppe, il fratello, la madre che mi lavorava lì, quindi erano conoscissi. Intanto l'avevi conosciuto anche tu, tutti, e che l'unico bambino che tu incassavo un benedino era solo quello lì, non c'era un'altra stanza lì. Alla stazione, guarda, era una cosa allucinante, quello che guadagnava quello in un mese, tanto per vendere bombole era. Lo so, ma purtroppo. Lubabo è intelligente. Il migliore un po' di meno, soprattutto una persona è poco intelligente, ma non voglio fare nome. Io ho capito, ma tu poi c'era la cosa, là il portausi, aveva investito anche lì, capito? Purtroppo è così, mi spiace dirlo, però è così. Cosa vuoi fare? Non voglio dire tanti dettagli, però lo sai com'è. Se abbiamo avuto un gabbo a posto, quella persona lì sarebbe stato un re adesso. Non è quello il problema, no, che penso cambiati adesso. Come mai? Chi vuole campare, capito? Bisogna che facesse i soldi molto molto prima, quando c'era la lira. Adesso abbiamo l'euro, poi la questione del Covid, e adesso tutte le cose che ci sono, un bel gente sta fallendo. Se non c'è i soldi da parte sei fregato. Vai così, Antone, vai così, se qualcuno aveva lasciato un po' più in caro, grazie, ma aveva avuto un impero, allora lascia perdere, lo dia a me. Non faccio nome, ma già mi è capito. Ma già di Tuburuendo, non è che bisogna andarsene lontano. Già lo so, ma li ho voluto anch'io. Se avessi avuto un pochino più di testa, ti avessi messo i soldi da parte, ti avessi preso un ciclo per i fatti tuoi. E a quel periodo i soldi ce li avevi, solo che quando ti vedi in casa che incassi una lì, quei soldi lì, sei giovane e te li spendi. Perché così, non ci pensi a andare via intorno ai 40-50 anni che comincia a fare la cosa, capito? Non è più niente, io non faccio lavaggio, ma lavoravo in un gambo quando eri che potevi farlo e ti aprivi una cosa conto tuo. Tutti gli altri stanno lavorando, stanno. E cosa vuoi fare? Fatto bugie, no? Non glielo puoi cambiare il cervello. Lasciamo perdere, ma se no magari se glielo dicono, chissà come glielo dicono, rompermi le balle, ma io non ho più problemi. Anche io se avevo avuto un po' di soldi nel periodo lì, quando facevo riparazioni di Perizzetto, e allora sì che facevo i soldi, solo che pigliavo 10.000 lire a riparazione. L'unica cosa che sono riuscito a comprarmi, mi sono fatto un milione e mezzo. Ho preso il tempo dopo, ho preso il 80. Come adesso me lo bevevo, facevo un giro io, un giro l'altro, non sai quanto guadagnava quel bar da Carlo, in Perizzetto. Solo da noi ci mi guadagnava e basta. C'era un giro di baracchini, era una cosa allucinante. Di tutto mi è entrato, di tutto di più. Ma praticamente che fa pigliava 10 euro parecchio.